senza te sono niente, una goccia di pioggia mi brucia sul viso. Io piccola donna e col cuore per strada pochissimo cielo. Dicevo non c'è, ma l'amore non c'è, è un'illusione che finisce sempre. Ma senza te sono niente. E qui senza te io bambina cattiva, bambina davvero, buttata sul letto a guardare la TV stringendo il cuscino, un mare d'amore poi piangere così.